Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Copiare la natura si rivela spesso un'ottima strategia, ma imitarla può rivelarsi straordinariamente difficile. È senza dubbio il caso della fotosintesi artificiale, l'idea cioè di replicare in modo controllato e altamente efficiente il cuore del processo di fotosintesi, ovvero la scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno grazie alla luce del sole. Riuscirci aprirebbe le porte alla produzione di una vasta gamma di combustibili solari, tra cui lo stesso idrogeno, ma anche al sequestro massiccio di CO2 dall'atmosfera e anche una grande disponibilità di ossigeno puro. Perciò sono molti centri di ricerca a lavorare sulla fotosintesi artificiale. Tra questi c'è il laboratorio NanoMolcat di Padova, dove nel 2014, quindi 2 anni fa, sono riusciti per primi al mondo a riprodurre in ambiente artificiale il processo chiave della fotosintesi clorofilliana. Ci spiega tutto la professoressa Marcella Bonchio, che è direttrice del NanoMolcat e anche professore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova. Buonasera Bonchio. Buonasera. Diciamo che il processo chiave che siamo riusciti a imitare è proprio quello che scinde la molecola di acqua in ossigeno e idrogeno. Perfetto. E siamo riusciti a farlo perché abbiamo riprodotto in laboratorio quello che è il catalizzatore naturale di tutto il processo, che è un complesso costituito da 4 atomi di manganese che è in grado di usare la luce del sole proprio per ossidare la molecola di acqua a ossigeno. Ecco, e perché? Perché vogliamo tanto copiare la fotosintesi clorofilliana? Perché è il processo più efficiente al mondo tra quelli conosciuti che fanno questo lavoro. E voi siete riusciti a usare il manganese, che è anche un materiale, diciamo, povero per farlo. Prima ci si riusciva, ma con dei materiali molto costosi, giusto? Sì, diciamo che fino a questo momento sono stati usati con grande successo catalizzatori basati su metalli preziosi, ecco, come rutenio e iridio, che funzionano bene, però, ma che hanno un costo, esatto, insostenibile. Quindi questa vostra scoperta del manganese è importante soprattutto per questa ragione. Senta, quindi abbiamo il cuore di questa fotosintesi artificiale, ma come noto un cuore non serve a nulla se non c'è l'organismo. Ora, quindi la sfida è implementare questo cuore su un supporto, vi serve una foglia. Cosa significa concretamente? Ci serve costruire un tessuto, come fa la foglia, che aiuti a fare funzionare in modo ottimale il cuore del processo, che è appunto questo catalizzatore. Quindi noi dobbiamo riuscire a posizionare questo cuore catalitico circondato dalle molecole che assorbono la luce e in un substrato, cioè in un tessuto, in un supporto che sia in grado anche di trasportare gli elettroni molto efficacemente, in modo da assorbire l'acqua e quindi scinderla nei suoi componenti essenziali, che sono ossigeno e idrogeno. Insomma, la foglia non è una roba inerte con su spalmata un po' di clorofilla, è una roba molto complessa e voi dovete, anche se per altre vie, riprodurre alla fine tutta questa complessità. E qual è la soluzione su cui state lavorando? Allora, il materiale che noi adesso stiamo considerando per questo, per costruire il tessuto artificiale della foglia è il grafene. Il grafene è un materiale che adesso sta andando molto di moda perché ha delle proprietà fantastiche, è molto resistente, assorbe la luce, è sottile come un film molecolare di atomi di carbonio, trasporta elettroni come un conduttore metallico. Diciamo che per costruire il tessuto della foglia artificiale però siamo anche riusciti a trasformare il grafene per rendere idrofilico, che cosa significa? Quindi in grado di assorbire, certo, l'acqua, in grado quindi di organizzare proprio e a mettere alla giusta distanza le molecole che assorbono la luce, i cluster catalitici che poi fanno il lavoro, ecco, di scissione dell'acqua. Queste superfici, si dice nel mondo delle nanotecnologie, che vengono decorate, no? Con tutte queste robe che appiccicate lì sopra fanno il lavoro che devono fare, compresi i vostri cuori fotosintetici. Sì, esattamente, vengono decorate e vengono assolutamente posizionate alle giuste distanze che sono ottimali per orchestrare questo processo così complesso. Mamma mia, una cosa, insomma, ecco, voi state riuscendo a fare questa operazione? È un processo lungo, richiede anche la collaborazione con molti altri laboratori, non solo dell'Università di Padova, ma ci sono esperti di scienze dei materiali, esperti di fotofisica, esperti di elettrochimica, esperti di costruzione di dispositivi. È un processo complesso, molto divertente, emozionante. Senta, È possibile immaginare i tempi di sviluppo di tecnologie di questo genere? Diciamo che le previsioni possono essere in qualche modo molto anticipate, perché noi comunque ci basiamo su quello che abbiamo imparato per la costruzione dei pannelli fotovoltaici, dei pannelli solari, che ormai è tecnologia di mercato, no? Diciamo che prevediamo proprio un pannello fotovoltaico, se vogliamo, maggiorato, cioè amplificato, in grado non solo di trasformare la luce in correnti, in energia elettrica, ma di trasformare la luce in molecole, in combustibili solari. Però, quando? Potrebbe essere 10 anni, 20 anni o insomma dovremmo aspettare di più? Sicuramente non è un progetto a breve termine, è un progetto che va sul medio e lungo termine, ma certamente i tempi potrebbero essere molto accelerati, perché la nostra, questa tecnologia si innesta sullo studio della scienza dei materiali, che sta progredendo a una velocità supersonica. Grazie Marcella Bonchio.